Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, per dormire bene ci vuole un buon materasso, ci dicono, però certe volte ad acquistarne uno nuovo può essere che perdi il sonno per i problemi che questo ti crea. Sì, noi seguiamo, come Adico, molte situazioni, molti casi di acquisti, anche di materassi. Molto spesso succede di materassi, succede dell'armadio, il divano, acquisti che soprattutto magari vengono effettuati o tramite un catalogo oppure nel negozio stesso, e dopodiché però alla fine a casa ci arriva una merce completamente diversa rispetto a quella che abbiamo ordinato. Noi abbiamo raccontato una storia abbastanza emblematica di una signora anziana del Vicentino di 95 anni, e questa signora, per vari problemi, anche se è una persona molto arzilla e molto sveglia, però per vari problemi fisici anche legati all'età, aveva bisogno di un materasso speciale di una certa altezza e dotato di alcune caratteristiche. Ha ricevuto in casa un venditore che gli ha mostrato un po' di modelli. Questa signora ne ha scelto uno ben preciso, alto 18 cm e con delle caratteristiche appunto particolari per poter affrontare i propri acciacchi, e invece, come appunto succede molto spesso, purtroppo aggiungiamo, a casa gli è arrivato un materasso dell'altezza di 12 cm e con un materiale quantomeno scadente. Infatti, da come ci è stato raccontato l'episodio, questo materasso perdeva addirittura della polvere, ancora da capire che tipo di polvere fosse. Ecco, allora, da questa cosa è successa a fine dicembre. Da quel momento la donna, fine dicembre chiaramente dello scorso anno, la donna ha cominciato a contattare la ditta, che è una ditta della provincia di Milano, e da là, diciamo, hanno cominciato a cercare di trovare una soluzione. Visto che da sola non riusciva a risolvere il suo problema, quindi a ritornare indietro il materasso, la signora intanto ne ha comprato un altro, perché aveva proprio bisogno, e in secondo luogo è venuta chiaramente a rivolgersi all'Adico per cercare di vedere, insomma, di farsi restituire quantomeno i soldi pagati, che sono 850 euro, quindi farsi rimborsare quanto pagato, intanto tenersi il materasso che aveva comprato nuovo, proprio perché l'altro era scadente. Noi abbiamo iniziato a scrivere all'azienda, diciamo che è iniziato un rapporto epistolare abbastanza positivo, nel senso che dall'altra parte abbiamo trovato comunque una ditta in grado di dialogare, tant'è che a un certo punto la ditta stessa ha inviato un tecnico a casa della signora, a casa della 95enne. Il tecnico è andato a casa e ha potuto verificare le condizioni del materasso, e in effetti le critiche mosse dalla donna erano esatte anche da noi tramite il nostro ufficio legale. Il materasso era più basso di quanto richiesto ed era di materiale scadente, e a questo punto, dopo la verifica, è stato accordato il rimborso di 850 euro all'anziana signora, che così adesso ha un materasso nuovo e ha ricevuto anche i soldi di quello scadente. Siamo soddisfatti, molto soddisfatti di come abbiamo risolto molto velocemente la questione, la controversia. Ricordiamo che questo risultato non è mai scontato, perché molto spesso ci troviamo di fronte a una controparte che non intende chiaramente venire incontro al cliente, comunque crea molte storie, magari propone un buono nettamente inferiore, dice che insomma non è corretta la critica nei confronti del proprio prodotto, e quindi Francesco, non è mai facile riuscire a interagire con queste aziende. Poi ovviamente dipende molto dalla serietà dell'azienda, però possiamo notare anche tramite il nostro sito che anche molte aziende, qua stiamo parlando soprattutto di aziende che vendono mobili, molte aziende che si pubblicizzano, che quindi hanno un nome a livello commerciale e sono molto conosciute, ecco, dicevo, anche molte di queste aziende in realtà poi vengono criticate aspramente da molti acquirenti per delle problematiche che possono accadere inevitabilmente. Noi diciamo una cosa, lo diciamo spesso tramite il tuo programma, però ci teniamo a risottolinearlo, ovvero mai arrendersi quando appunto riceviamo un prodotto che non è quello che abbiamo ordinato, quando ci troviamo di fronte a situazioni che riteniamo ingiuste. Molte volte ci rassegniamo perché diciamo la solita frase, beh tanto non cambia niente. Invece no, storie come questa, ma come centinaia di altre che ci capitano, dimostrano come da soli, ma ancor meglio appoggiandosi a un'associazione come la nostra, si creano quei canali per cui poi è possibile ottenere giustizia anche di fronte a situazioni che, per le quali ci sembrerebbe impossibile trovare una strada. Beh, bene, bene. Allora ricordiamo che c'è il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, lì trovate i numeri di telefono per contattare l'Adico per chiedere un eventuale aiuto in questa, ma anche in tantissime altre problematiche che toccano il mondo dei consumatori. Grazie a Gianluca Codognato, ci sentiamo tra qualche giorno. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.